Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Roma 1849, la breve vita della Repubblica Romana. Da Storia Nostra di Cesare Pascarella, sonetti raccontati da Blas Roca Rei e accompagnati al piano da Rocco Roca Rei. A Roma al Circolo della Pipa, martedì 16 luglio 2019. E adesso, come il caso non sia mai, che te trovassi giù fuori delle mura, solo de notte, in mezzo alla pianura, senza fare la strada, dove vai? Cammini e non capisca perché fai. Cerchi di venire avanti all'avventura, giri alla cieca dentro l'aria scura, ti fermi e non capisci dove stai. Ci provi, ci riprovi, e quando vedi che è inutile, che sei sperduto, solo, che non sai quello che c'è sotto le piedi, seguiti un altro po', ma poi finisce che ti rimborti dentro al faraiolo, ti metti a sede e aspetti che schiarisce. Aspetti, e al fine stracco, insonnolito, ti butti giù fra l'erba, passa un'ora, ti pare chissà quanto che hai dormito, ti svegli. Avevi chiuso l'occhio allora. Senti abbaiare i cani, cambi sito, te li appelli, e dopo un quarto d'ora siamo da capo, tutto intirizzito, te risvegli, apri l'occhio, è notte ancora. Cerchi di alzarti su, dove ti tocchi, te senti il zuppo frascico di brina, te spazientischi, te strofini l'occhio, aspetta, aspetta, fino ecco che sorge striscetta di luce fina fina, uno la vede e manco se ne accorge. Non se ne accorge. E intanto la lucetta si sparge dentro all'aria, te cammina. Smorza le stelle, striscia sull'erbetta, te sceglie dolce, dolce alla marina. Poi senti cantare la cotoletta. E intanto quell'arietta razzentina che te penetra dentro la giacchetta, te la senti qui, dentro alla schiena. Ricomincia a vedere le vie maestre, ricomincia a vedere sulle montagne sbriluccicali mentre alle finestre. Tutta la campagna si sveglia, si fa d'oro e sorte il sole. Allora t'alzi su da dove stai, te sgrulli, te pulischi, t'alzi in piedi, sparisce il sonno, te rivia la fede, vedi dove hai dannato, t'alzi e ci vai. Che dici? Che la strada non la sai? Ma caro amico, è giorno, ci si vede, al primo che uno incontra, glielo chiede, quello te lo insegna e ci annerai. E sia che vai vicino, vai lontano, quando che tu mi dici che c'è il sole, che quello te ci porta per la mano, allora insomma vai, giri, cammini. E senza staccia fa tante parole, il sole per l'Italia fu Mazzini. E come venne lui che si fu messo alla testa, la notte fu finita, e la gente che stava giù addormita s'alzò, riaperse l'occhio e gli andò appresso, e imparò che per far piazza pulita bisognava che ormai fosse successo, ch'uno l'Italia la vedesse unita come noi altri la vediamo adesso. E intanto, qua si combatteva in guerra, lì si scriveva, qui si cospirava, lì si agiva, e ogni giorno che passava si cambiava la faccia della terra. E hai voglia mette ditti e cresce triboli, hai voglia apri galere, arresta gente, hai voglia pianta forche, azzappa tiboli, che quelli dagli sopra e dagli sotto. Venne il giorno che al fine finalmente la mattina per scoppia il 48. E fino adesso, amici, si è parlato di storia. Si è discorso di un soggetto che, insomma, tutto quanto quel che ho detto non l'ho visto perché io non ci sono stato. Ma quel che dico adesso cambia aspetto, perché mica me l'hanno raccontato, mica l'ho inteso di, mica l'ho letto. Nel 48 mi ci sono trovato. Che giornate, che roba, Che momenti! Roma, l'Italia, il mondo si vedeva che traballava sui fondamenti. E la vita che era morta, rinasceva da capo e che pareva che rinascesse il mondo un'altra volta. Non solo, ma dovunque le persone che prima si sarebbero sbranate, le rincontravi tutte abbraccicate, tutte quante pensando un'intenzione. E il fumo degli spari del cannone, fra le bandiere larghe sfoderate, si mischiava alle gran messe cantate fra gli incensieri delle processioni. E dappertutto, fino ai confini, fin dove lo potevano sentirlo, uomini, donne, vecchi, ragazzini, tutti quanti pensavano un pensiero, tutti quanti strillavano uno strillo, viva l'Italia e fuori lo straniero. E come tu vedi tante volte che siede a fuoco dove c'era il grano, e che il fuoco cova, cova, e quando sorte fuori ti pare peggio di un vulcano, così quell'urlo usciva dalle porte, passava le campagne, a mano che arrivava quell'altro più lontano, quell'altro lo strillavano più forte. E tanta fu la furia e la tempesta di quell'urlo, che a forza di strillarlo, che al Papa Puro gli girò la testa. Si trovò messo con le spalle al muro, e un giorno a niente suo a Montecavallo aprì la loggia e lo strillò lo duro. Allora giù da capo precisioni, stendardi, lumi, fiori trasparenti, musica per le piazze, monumenti di trionfo per tutti i cantoni. E giorno e notte su, dimostrazioni, pannai a dimostrare i sentimenti. E lui sortiva dagli appartamenti, s'affacciava e giù, benedizioni, ma nel mentre dovunque uno guardava e vedeva manifesti, armi, bandieri, gente per strada che s'abbraccicava, che pareva che Roma fosse uscita da una carcere a fondo le galere. Eccete che vi avanti il gesuita. Infatti il capo della compagnia che aveva ridunato la congrega fece l'affare qui ha preso una piega che il Papa migliari è da impazzia. Questo dice, proclama l'amnistia, benedice l'Italia, può fare la Lega col Piemonte. E si dura s'anarchia, sto fregno ci rovina la bottega. E tizio fatto corsero a San Pietro e dice, santità, ma siete matto? Ma per l'amor di Dio, tornate addietro! Addietro? Addietro? E chi lo può presume? Dopo che tu nel meglio che l'hai fatto veni avanti. Lo puoi fermare un fiume? Nel fiume si lo vedi da lontano, dove nasce, che ancora non si è mosso dai monti, si tuglie poi da addosso, fra i sassi, lo fermi con la mano. Ma se invece lo lassi scegliere piano, che lui desincanale renta un fosso, allora ti saluto, a mano che via avanti si gonfia, si fa grosso, si intorna, si slanda, cresce, cresce, e quando sbatte giù a Ponte Felice, fallo ritornare su se ti riesce. Tu ci puoi scannare quanto ti pare, quando che sta a rimetta lui ti dice, ti saluto Paranza, io vado a mare. Così capischi che il popolo rispose, e lui che cominciò a mangiare la foglia fece fra sé, l'affare qui si imbroglia. Cercò di farsi indietro e si annascose, ma al punto come stavano le cose, che dopo aperto non aveva voglia di entrare dentro e restava sulla soglia, e il popolo c'ha niente e glieli impose. E ceduto che fu, successe uguale come quando che tutto in un momento s'accumula nel cielo un temporale, che all'improvviso poi te cambia il vento. Così il popolo fece tale quale, strillava morte a basso tradimento! Voleva fare giudizio universale, ma poi, come conobbe il sentimento del Papa che ieri tornava in bono, il popolo, che insomma è sempre umano, ricominciò a strillare, viva Pio Nono! Ma se vuol dire che manco ebbe posato il fucile per sbattergli la mano, che il Papa... Il Papa? Il Papa era scappato. Ma dove scappi? Via, si benedetto, ma non scappavi è qua, ma dammi udienza! Poi dopo scapperai, ma più pazienza, ma che talento c'hai nell'intervento? Prima ci metti in mano il fucilletto, ci dichi annate, andiamo lì a Vicenza, 2 mesi appena dopo la partenza, ci richiami e ci dichi io non l'ho detto. Intanto te lo presenti sulla loggia, benedichi l'Italia, vuoi la guerra, e poi, quando che il popolo t'appoggia, tu gli dai lo statuto e poi lo strappi. Vuoi correre e me te butti giù per terra, e poi nel meglio te travesti e scappi. Poi, dopo che hai fatto sta provezza, dichi che è stato per le condizioni che il vicario di Cristo ha la certezza che non può fare la guerra alle nazioni. Ma quando chiuso dentro la fortezza de Gaeta, con re dei Borboni, arrivi fino alla scelleratezza di chiedere i fucili, armi, cannoni, per caricargli e scaricargli il petto a quelli che t'avevano adorato, a quelli che tu avevi benedetto. Allora non scappavi qua, rispondi. Allora tutto quanto il vicariato di Gesù Cristo, dove la nascondi? Dove te la nascondi? E sei sincero, alza la testa e parla su per Cristo. Quello che dico è vero o non è vero? Quello che hai fatto non l'avevo visto. Finché hai da fare la guerra allo straniero per paura di fare una ciacca pisto, nulla puoi farla manco col pensiero, perché te lo proibisce Gesù Cristo. Ma quando vuoi per ritornare al dominio, per rivedere l'Italia fatta spicchi via lo straniero e porta lo sterminio, allora perché quello ti rimette sul trono, ammazzi pure, abbruci, impicchi, che allora Gesù Cristo lo permette. Ah, dunque, quello, proprio quello è stato il figlio dell'Eterno Padre che ti ha detto di far venire le squadre degli stranieri qui dove sei nato. Ma tutti quelli che hanno massacrato non erano di qui, come tuo padre, ma per parlare. Che lingua hanno parlato? Non parlavano quella di tua madre? Che sai, pure le berbe che so berbe, quando qualche altra berba forestiera gli se va a introfulare dentro le serve, come che quella lì lo dimostra, te sanno trovare modo, la maniera che dire, hai ritornato a casa vostra. Invece tu tutto il lavoro che era di chiedere a tutti i paesi e gli stranieri, e perché fossero scesi qui, te ci aiuti pure in concistoro. Ma poi, ma te lo vuoi godere sto tesoro? Ma ti piace d'abitare i francesi? Ti piacciono i limoni, gli cinesi, li vuoi far venire qui, e va tu da loro. Ma quello sì, da loro non ci andava. E intanto si strappava i capelli, si buttava in ginocchio, li chiamava, e chiama. E storia vecchia, di francesi che poi sono sempre quelli. Cominciarono a sbarcarci da vecchia. Sapevo che riparmi, sapevo che andrei, sti maniti d'ombrelli non so potuti entrare, si boia le francesi all'ombra di San Pietro, le more spinti indietro non torno a ritornare. Insieme a Garibaldi gli andiamo a fare la fossa con la camicia rossa, chi mai ci può fermare? Abbasso lì francesi, abbasso sti crostini, a noi trasterini nessuno ce la fa, nessuno ce la fa. Dove, sbarcati appena con l'inganno, messero per programma un manifesto dicendo: noi venimo col pretesto d'aiutarvi, ma non per farvi danno. E mentre se venivano accostando, seguitavano a dice: noi del resto siamo repubblicani, e in quanto a questo noi siamo come voi, tutti lo sanno. E sperando che Roma il 30 aprile gli dicesse: ma bravi, vi ringrazio, si presentarono a Roma col fucile, ma dritto in piedi sui baluardi delle mura di Porta San Pancrazio, qui a Roma, l'aspettava Garibaldi. E come quelli lì, che si aspettavano ridendo, di venirci a sottomettere, cominciarono a sentire le baionette dei Garibaldi che li luccicavano attorno strada, e intanto che scappavano, che Garibaldi gli tagliava a fette, le cannonate che erano dirette dalle mura di Roma si spiegarono. E quelli butta via sacchi, fucili, correndo per le vigne a precipizio, sotto le fratte, addosso ai fienili, e intanto con la forza e con l'ingegno, Galletti, Calandrelli, Vizio. Dove passava ce passava il segno. Ma per questo bisogna dire che quello l'anima ce l'avesse intraversata. Vizio, sangue di Dio, gli sciabolata che menava per Cristo era un macello. E mentre che fra mezzo a quel flagello veniva giù strillando, da un'occhiata dentro una vigna, e vede che imboscata c'era una compagnia con un colonnello, fermo e cavallo, zompa i cancelli, lui solo, gli va addosso a speronate, la quanta stretto prima i capelli, con l'ugne, stretto che non pare vero, e in mezzo al fumo delle schioppettate se lo strascina Roma prigioniero. Intanto Garibaldi seguitava a respingerli, su alla baionetta, fuori da porta, su per la bravetta, fino a Castel de Guido. Mentre stava per dargli secondi l'ultima stretta, proprio sul punto che le ributtava a mare, gli è decorsa una staffetta con un ordine che lo richiamava. Figurati un po' tu quel che provasse quello, quel che sentisse in mezzo al cuore, quello, assentisse lì che se fermasse. Eppure, per più bello che inseguiva i francesi dovunque vincitore, vede l'ordine, insomma, acconsentiva. Quello che ci fruttò d'aver obbedito dei trattati con tutti i riguardi dopo, se ne accorgessimo più tardi, quando che loro ci ebbero tradito. Ma lui, che pur avendo acconsentito, lo sapeva che straccio dei buciardi fossero i francesi. Garibaldi, che l'aveva già subito capito da che parte pendeva la bilancia, come intese discorre l'armistizio, gli fece dice andate a fare in Francia. Ma a Roma invece avevano pensato che l'accordo poteva essere un inizio di pace, e l'armistizio fu accordato. Infatti, mentre prima fa il trattato dove si stabilisce e si combina che i francesi fino alla mattina del 4 non ci avrebbero attaccato, invece, come aveva già pensato, nella notte del 2 ci si avvicina come un ladro, le notte alla sordina, senza dirci che si era avvicinato. E come prima, mentre il commissario ragionava con noi perché cedessimo, c'entrava dal nascosto a Montemario. Così, prima che quasi i fucili ci svegliassero e se ne accorgessimo, quello era già entrato a Villa Panfili. E noi, come sentissimo il cannone che era l'allarme degli tradimenti, trombe, tamburri, fra la confusione dei staffetti, dei strilli, dei lamenti, si seppe che il nemico era padrone già del casino del 420. Per riportargli via la posizione, seguì il giorno di combattimenti e dal primo momento che sorgeva la luce, che s'uscì fuori delle porte, fino all'ultimo che ci si vedeva. Si fece tutto. Ma non ci fu verso di spuntarla. Fu preso per tre porte di fila. Per tre porte fu riverso. Davano il segnale, mentre dalle finestre e le ferrate veniva giù l'inferno, dal viale si rimontava sulle scalinate, si entrava nel portone per le scale, per le camere, fra le barricate, le sedie e tavolini, per le sale, a bozzi, a spintoni, a sciaffolate, con qualunque arma come se poteva, fra fiamme, fuoco, strilli, sangue, morte, si cacciavano via, si vinceva, non ci fu verso di spuntarla. Preso per tre volte di fila e per tre volte fu riverso. L'ultima, il tetto in cima già fumava, tra i soffitti mura si abbruciavano, per le camere ormai si camminava sui morti che si carbonizzavano e ogni razzo, ogni bomba che schioppava nelle camere che si sfracellavano, mentre che si feriva e si ammazzava, tra i soffitti giù si sprofondavano. Eppure sai, finché non fu distrutto, finché ci furono muri, scale, porte, per poterci entrare, si provò tutto, ma non ci fu verso per spuntarla, fu preso per tre volte di fila, e per tre volte fu riverso. E perduta che fu la posizione, che se può dire, se l'erano rubata, per quanto uno avesse l'intenzione che la difesa fosse seguitata, non c'era più da starsi a fare illusione, perché una volta persa la giornata del 3 giugno, Roma era questione di tempo, ma la sorte era segnata, perché senza contare la gente morta e il terribile che era succeduto, era che denoiati fuori de porta non c'era più che medici al vascello e il resto tutto quanto era perduto, non ce ne stava in piedi altro che quello, ma ci rimase lì fino alla fine, finché il muro, i sassi, i mattoni, finché le pietre dei cornicioni non stavano giù dritto alle cantine, e lì, fra sarti, mine, contromine, tutti i reggimenti e i cannoni, finché non volle lui, non furono buoni da farlo scegliere giù dalle rovine, che dal principio che s'era mosso lì, più loro li francesi ci provavano a cacciarlo, e più lui sempre lo stesso, imperterrito, sempre in cima alle macerie, se lo ritrovavano, ogni giorno, sempre lì, meglio di prima. per quanto una forza strapotente lo strinesse così, uno pensava che insomma via non fosse umanamente possibile restarci. Oh, lui ci stava. E più che quello lì lo subissava di ferro e fuoco e gli ammazzava gente, più che gli andava sotto e gli intimava dell'assallo, e più lui, medici, niente. Lo lasciò. Solo all'ultimo momento, ma perché Garibaldi dalle mura gli impose dell'assallo e torna a Trento, allora lo lasciò. Soltanto allora. Sì, no, medici, quello era figura che lì al vascello ci sarebbe ancora. Però qualunque prova di coraggio facessi, lo capiva una creatura che qui se stava dentro un ingranaggio, tale che ormai la fine era sicura. E fatti, mentre in tutta la pianura i francesi ci avevano il vantaggio d'averci sano e libero il passaggio sino al mare, noi qui, dentro le mura, stretti dalle tenaglie dell'assedio, ogni perdita di truppe e munizioni era perdita ormai senza rimedio. E più noi si trovavamo fra gli stenti, più a quelli gli arrivavano cannoni a centinara e truppe, abbastimenti. Eppure noi, quanto se vedeva, se sapeva e se fosse conosciuto che era inutile, che non si poteva vincere, che tutto quanto era perduto, pure ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, senza riposo mai, se resisteva, insomma, già che si era risoluto di non cedere per Dio, non si cedeva. Così tutti i giorni una funzione, e come la giornata era finita, cominciava a sfilare la processione di quelli che, sortiti dalle porte la mattina nel meglio della vita, ci rientravano in braccio della morte. Cominciavano tra le sentinelle, quelli a cavallo con le torce a vento, strillando: avanti, largo, fermi, attento! E appresso affila tutte le barelle, e lì in mezzo le madri, le sorelle, fra la folla che camminava a stento, le vedevi e sentivi in ogni momento gli strilli che arrivavano alle stelle. E così fra gli spasimi dei pianti delle donne, fra l'ordine di quelli che strillavano sempre: largo, avanti! Giù tutti, finché davano il segnale delle fermate avanti ai cancelli delle porte, davanti all'ospedale. L'ospedale e tutti gli altri siti dove c'erano i locali addetti alle ambulanze ormai si erano riempiti al punto che mancavano i letti. Ogni giorno giravano carretti e sentivi strillare: chi c'ha vestiti vecchi, camicie, fasce, fazzoletti, dateli per i nuovi feriti! Allora dalle case, dai palazzi, vedevi venire giù dalle finestre cuscini, fasce, fini, materazzi, e lì con i carretti, con le botte, con i sacchi, le sporte, le canestre, e via! Fino al principio della notte, la notte di quegli ultimi momenti, che erano quelle ultime nottate, fra gli errori degli accampamenti, fra le fiaccole delle barricate e dappertutto, fra i monumenti, sopra i ponti, per le scalinate, fasci d'armi, cavalli, finimenti delle truppe che s'erano accampate, dappertutto soldati giù all'oscuro, sotto le file dei colonnati, buttati fra la paglia addosso al muro. Qualunque cosa viva era finita in quegli ultimi istanti disperati. Roma non dava più segni di vita. Dovunque t'accostavi era un terrore. Gira, gira, non si incontravano cane, e passavano l'ore e l'ore sane ad un silenzio che ti gelava il cuore. E quando hai levato le campane, che sentivi ogni tanto batte l'ore dell'orologio e quel solito rumore che fanno l'acqua a fondo alle fontane, l'unica voce che uno risentiva erano l'urli delle sentinelle che ogni tanto si davano al chilo. E come che quell'urlo era passato, e se stavano zitte pure quelle, allora poi si sentiva un fiato. Noi però, sempre fissi in quel pensiero che resiste a qualunque condizione, vai a cercare i modi e le maniere per trovarsi una via di salvazione, e oggi si scavavano trincere per vedere e salvare una posizione, domani si muravano macele per proteggere le bocche dei cannone, intanto per le vigne giù fra l'orti, tutti i fossi e i precipizi delle mura sentivano i morti, e come uno si poteva sciogliere l'assedio per via dell'armistizio, si sortiva e si andavano a raccogliere. Beh, vedi, da quel tempo sino adesso, da tempo, Dio lo sa se nel passato, che tanti fatti me ne sono scordato, e tanti altri li so così, andi presso. avanti. Ti confesso che da quel giorno lì che ci sono stato a ricogliere e me li porto appresso, come se avessi tutto qua stampato. E come ne ridico una parola, quel tanfo delle carni frascicate me lo risento qui, dentro la gola. E quando ci ripenso, tutti quanti quelli che ho visto lì in quelle giornate, oh, mi pare di averceli davanti. Certi si trovavano abbottati, pallidi, che parevano di gesso, che nell'arsali ti veniva appresso la carne con i vermini attaccati. Cert'altri invece che erano restati al sole, sempre lì, gli era successo che li portavi via neri all'eccesso, quasi peggio che fossero abbruciati. E tutti che mettevano paura, senza occhi, senza più le effigie umane, con l'interiore fuori della montura, e Dio liberi, come se toccavano i vermini, le mosche, le zampane, a nuvoli, le veste che te cecavano. Poi te credi tu che la nazione te dov'erano in mezzo a quell'orrore che te saresti vomitato il cuore? Lo capivi da qualche distinzione? Ma da niente. Perché quando uno muore in guerra e tu gli elevi il paragone della montura e l'altra guarnizione dell'abiti, e sono tutti in un colore. Infatti quando quelli erano vivi, chi fossero con tutto quel lavoro dell'odio della guerra, lo capivi. Ma lì per terra l'unico divario che distingue i nostri dalle loro consisteva soltanto nel vestiario, ma non c'era. E tante le volte non solo si trovavano magnati dalle bestie e ridotti in quella sorte, del modo che t'ho detto, ma spogliati. Basta, lì, dopo averli sotterrati, sia che tutto quel senso della morte ci avesse, se può dire, pacificati, invece di rientrare dentro le porte, si stava assieme e fino a che durava l'armistizio, qualunque divisione spariva e quasi fino si scherzava. Ma nel meglio che tutti erano amici, detti del primo colpo di cannone, ridiventavano nemici, e se riprincipiava, ma che vuoi riprincipiare di più quando mi dai che ti accorgi che tu non ce la vuoi, per quanto tu arrampichi, che fai? Quello che su per giù facevano noi, e per quanto non si finisse mai di resiste, la fine era che poi più stava e più crescevano i guai. E fatti piano piano, poco a poco, contornati dovunque da ruine, chiusi, dritti in un gran cerchio di fuoco, eremo già venuti a quel momento fatale del principio della fine. L'ultima ora del bombardamento. Razzi e bombe fioccavano, ma pure fra mezzo alle rovine, agli sfaceli dei palazzi, in mezzo alle paure di quell'ultimi strazi più crudeli, non si cedeva. Per Pincio e l'altra Arture, la Trinità dei Monti, alla Araceli sentivano de donne e de creature che cantavano l'inno dei Mameli, li cantavano tutti, e intanto quello che gli scriveva, consunto dal male, con la gamba tagliata, Porello. Dal giorno che fu fatta la sortita del 3 giugno, languiva all'ospedale in fondo da letto, in fin di vita. Chissà quante volte da quel letto di morte, chiuso nell'infermeria, mentre sentiva in fondo alla corsia le bombe che schioppavano sul tetto, chissà quante malorte, poveretto, quegli inni scritti nella frenesia della vita. Era stato costretto per risentirli in mezzo all'agonia. Chissà quante malorte. A mano che cessava nel fuoco e all'aria quieta, forse li risentiva da lontano. Chissà che avrà pensato quel pensiero, quello che non soltanto era poeta, come si dice, ma poeta vero. Perché quello che tu ci avevi dentro, nel cuore tuo, senza saperlo esprimere, lui ci aveva quel dono del talento di scriverlo stampato con le rime, in un modo che tu, fin dalle prime parole che capivi l'argomento, quell'inni sui te li sentivi imprimere nell'anima con tutto il sentimento. Tanto che fun uscivano stampati, mi ricordo che manco si guardavano con l'occhio, che se l'erano imparati. E il più bello di tutto quanto poi era questo, che quando si cantavano ci pareva di averli scritti a noi. Per questo, quando una dimostrazione passa con le bandiere fra la gente che a quell'inni rimane indifferente, io quasi me ne fode una ragione. Perché io dico che tutta l'impressione di quell'inni, ma come la risente uno che non si porta con la mente a quei giorni di emozione? Bastava malapena delle sentine di mezza parola, perché fatiche, fame, avvilimento, qualunque affanno, di qualunque pena, tutto sparisse come nebbia al vento. E come li sentivi lì, fratelli d'Italia, li vedevi tutti quanti con accette di sassi, di coltelli, correre alle mura e ributtarsi avanti. Tutti li rivedevi, fino a quelli chiusi nell'ospedale, agonizzanti, li rivedevi pallidi, tremanti, scegni da letto e usciti dai cancelli, rivedevi di morti insanguinati che riaprivano l'occhio, si rialzavano da per terra dove erano cascati e senza sentir più i patimenti delle ferite se li strascinavano sulle mura e morivano contenti. fa più. Per quanto orribile fosse la morte, senza che giovasse a nessuno, per quanto mai terribile, era l'unico ormai che ci restasse, che volevi far più. Tutto il fattibile si era fatto, oramai che se sperasse, che il governo di Roma non parlasse di resa, era sperato l'impossibile. Infatti all'assemblea dei deputati che insomma non potevano andare avanti, per quanto loro fossero angustiati dei disputi a provare che la difesa fosse cessata, pure tutti quanti cominciavano già a parlare di resa. Ma siccome mancava la presenza dei Garibaldi, appena venne letta la proposta che Roma era costretta per forza a terminare la resistenza, pensando che se ci fosse a conoscenza di quello qualche idea l'avrebbe detta, fu decretato subito d'urgenza le spedigli di corsa una staffetta che, come lo trovò che difendeva l'ultima barricata del Gianicolo, gli disse che il governo lo voleva. E lui, benché straziato dall'idea dell'assacco di posti in pericolo, porta il cavallo e torna all'assemblea. Arrivato davanti al Parlamento, che in quei giorni lì si ritunava a Campidoglio, appena che fu scelto, che vestito come se provava, con la spada che non rientrava dentro nel fodero, che ancora è gocciato del sangue sul mantello che portava i segni ancora del combattimento, come comparve rosso, del colore della battaglia, a vedere coperto di polvere, di sangue, di sudore, fu un urlo. Un urlo solo, e così forte, che io dico che l'intesero di certo quelli che si battevano le porte. Poi, ma poco a poco fu quietato tutto quel terribilio e fu costretto ogni franco si avesse immaginato dentro la mente sua qualche progetto e che si pure fosse esagerato perché insomma potesse avere l'effetto che almeno Roma avesse ritardato da qualcora che lui l'avesse detto. Lui come che il governo gli impose mentre tutte le gente ridunate lì dentro non fiatavano rispose uno ce n'è ma bisogna essere pronti passare a fiume passare le barricate dall'altra parte e far saltare i ponti. Era troppo. Poi tutto calcolato, pure che ricorrevi a quell'eccesso che avresti fatto. Avresti ritardato di qualcosa, ma dopo era lo stesso. Ma quello invece appena fu forzato di rispondere, sì dopo d'aver messo in pratica quel mezzo disperato, cosa poteva poi sperarci appresso? C'è da sperare, scuse, che oramai se c'è da restare sotto le rovine, ci saresti, ma scegli a patti mai. Senza sta aspettare che fosse sciolta la seduta e approvassero la fine, corse a combattere ancora un'altra volta. Fino all'ultimo, e quando che la resa fu decisa, straporta i soldati a San Giovanni e appena la schierata sul piazzale davanti della chiesa, Giovanotti gli fece, Roma è presa, io non cedo, per cui vorrei donato. E se non volete, se disarmati venite e seguitiamo la difesa. Io non vi sposto, perciò venga chi vuole, ma chi vi si ricordi che ho promesso, fatiche, fame, sete, vento e sole. Diserto. E sortito dalla porta con quegli armi che gli andarono presso qui a Roma. La Repubblica era morta. Inutile che provochi a a meno un mese preghi, la gatta fresciolosa che si figli c'è, se troppo sbaglio me, con te non mi ce metto, io batto un'altra strada, io c'ho pazienza, aspetto, voglio cantare così, fiore de- Con Blas Rocarei per presentare lo spettacolo Roma 1849, la breve vita della Repubblica Romana attraverso i sonetti di Cesare Pascarella, ossia Storia Nostra. Blas Rocarei alla voce e al pianoforte, Rocco Rocarei. Ben trovato, Blas. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di questa radio storica. Buongiorno. Allora, guardando in archivio ho ricontrollato e l'avevamo già proposto questo lavoro nel 2014 quando lo hai fatto con Pieranunzi ai Solisti del Teatro. Ora questa nuova versione, per chi non conoscesse questi sonetti, raccontiamo un po' cosa sono. Cesare Pascarella ha scritto un libro che si chiama Storia Nostra, in cui ripercorre tutta la storia di Roma dall'origine, dalla fondazione fino all'Ottocento, in sonetti. Questi sonetti sono una parte dei sonetti che lui ha dedicato a raccontare la Repubblica Romana, che fu nel 1849, quindi c'è il 170° anniversario, tra l'altro, e durò poco meno di 6 mesi. Fu un'esperienza leggendaria, una rivoluzione meravigliosa che partorì una Costituzione molto molto avanti con le idee che conteneva, e con una chiamata alle armi e a questo ideale meraviglioso di patrioti che vennero da tutta Italia, addirittura da tutta Europa, venne Garibaldi, Mameli, fu una cosa incredibilmente potente in cui la popolazione venne conquistata istantaneamente da questa idea e da questa lotta impari contro un nemico che era il Papa in principale, e in secondo luogo il Papa chiamò i francesi, che entrarono tra l'altro di soppiatto a tradimento a Roma, non rispettando i patti d'armistizio, e cominciò un massacro. Fu una battaglia terribile, sanguinosissima, in cui morirono decine e decine, centinaia di ragazzi uno dopo l'altro. Una storia che non tante persone conoscono, ma che è veramente una storia che ti mette i brividi, e Pascarella racconta attraverso questi sonetti questa storia in un modo emozionante, spettacolare, veramente una cosa che certe volte ti viene la pelle d'oca a leggerli proprio. E quindi credo che sia uno di quegli episodi di teatro civile, chiamiamolo storico, che vanno fatti e vanno condivisi, perché è uno dei sensi del mio mestiere, immagino, penso. Quindi è un lavoro a cui sei particolarmente legato, visto che lo riproponi ogni tanto. La volta scorsa era, insomma, era il 2014, sono passati anni, però insomma è ancora un tuo cavallo di battaglia. Sì, in realtà io l'ho fatto molto poco, io l'ho fatto in tutto, domani lo farò per la quarta volta, le prime due volte l'ho fatto con Enrico Pierannunzi, che scrisse musiche originali per tutto lo spettacolo, e adesso lo faccio con mio figlio, perché è un piacere immenso per me stare in palcoscenico con mio figlio, che studia al conservatorio a Siena e fa musica da quando ha 5-6 anni, adesso ce n'ha 21, ed è una cosa che a me mi appassiona veramente, ed è uno di quegli spettacoli che tu puoi portare dovunque, perché non hanno scenografia, ed è un pochino il senso intimo, profondo del teatro, cioè delle persone che sono pronte ad ascoltare una storia e qualcuno che la racconta, non serve poi così tanto altro per il teatro, sì. E questo è un esempio, credo, abbastanza fulgido di questa idea del teatro. Blas, cosa avevi amato del testo di Pascarella? L'immediatezza, la modernità, nonostante sia raccontato attraverso il sonetto, che è una forma poetica abbastanza datata, insomma molto precisa, riesce a essere così comunicativo, riesce così a comunicarti quello che era la speranza di questi uomini, di queste donne, di questi ragazzini, il dolore, il tradimento e l'entusiasmo verso dei valori che oggi sono abbastanza perduti, ma dei valori veri, cioè parla dell'inno d'Italia, dei fratelli d'Italia in un modo che noi non ce lo sogniamo neanche, perché molto spesso purtroppo l'inno d'Italia, il patriottismo sono stati valori che sono stati, come si posso dire, fagocitati da una certa destra in maniera abbastanza odiosa e prepotente, mentre invece no, qui tu ti rendi conto di come c'è un sonetto meraviglioso in cui dice: erano talmente belli questi inni, questo Fratelli d'Italia era così bello che appena lo sentimmo noi ce lo imparammo a memoria come se l'avessimo scritto noi. Cioè è una cosa che ti emoziona tantissimo, perché evidentemente l'afflato di un'intera generazione che crede in un sogno quasi impossibile lo persegue purtroppo fino alla morte, perché quasi tutti morirono, ed è una storia incredibilmente potente. E l'ascito di quell'esperienza fu la Costituzione della Repubblica Romana, che fu presa a modello non solo per l'attuale nostra Costituzione, ma un po' in tutto il mondo. Certo, ma addirittura nel 1849, nella città del Papa, uno degli articoli della Costituzione era la libertà di culto, era la non obbligatorietà del servizio militare, l'equiparazione fra uomo e donna, c'erano delle cose di una modernità incredibile, ma poi tutta la Repubblica Romana si porta dietro degli aneddoti. Pensa che io adesso, quando ho fatto quest'altra replica a Trastevere, il fonico, attore dilettante ma molto preparato sulla Repubblica Romana, mi ha raccontato una storia meravigliosa che io non sapevo che adesso vi racconto. Quando i francesi entrarono a Roma, all'inizio Roma non era preparata e trovarono una strenue difesa di 80 uomini, solo 80 uomini, che resistettero ai francesi per un tempo indescrivibilmente lungo e poi furono massacrati tutti 80. Ma erano talmente eroici questi 80 romani che il colonnello francese che comandava le truppe, per onorare questi 80, diede il nome di questi 80 ragazzi a una via, perché a Monteverde c'è una via che si chiama Via dei 420, ma non è Via dei 420, è Via dei 420, perché in francese 4 volte 20 vuol dire 80, e nessuno sa che quella via è in memoria di questi 80 ragazzi. Cioè Roma è piena di queste storie meravigliose. Che vita avrà in seguito questo lavoro? Lo continuerai a portare in giro? Ho vari spettacoli che ho nel cassetto e quando serve li tiro fuori. Adesso, quando l'ho fatto a Trastevere, uno dei direttori del Ministero dei Beni Culturali mi ha sperturato e promesso che a settembre farà tutto un giro di consultazioni per il CEI di Monteverde, del Gianicolo e di Trastevere, che vuole assolutamente rifarlo, perché era non riusciva a parlare dell'emozione dello spettacolo, e questo per me ovviamente è un piacere immenso. Quindi lo spettacolo è sempre pronto, purtroppo ha un rischio secondo me non vero, perché fuori dal Lazio lo spettacolo non viene preso volentieri perché pensano che sia incomprensibile il romanesco, mentre il romanesco si segue perfettamente, però c'è un po' un problema di territorialità. Però il Lazio è grande, Roma è immensa, io questo spettacolo lo farò sempre, ogni volta che me lo chiedono. E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma, al Circolo della Pipa, martedì 16 luglio 2019, con Roma 1849, la breve vita della Repubblica Romana, da Storia Nostra di Cesare Pascarella, raccontati da Blas Rocarei, accompagnato al piano da Rocco Rocarei. Blas, un abbraccio, in bocca al lupo. Ricordiamo anche l'indirizzo, via Iacovacci con la I davanti di Giolli, Iacovacci, alle pendici dei Parioli. Un abbraccio, a presto, Blas. Grazie Federico, buon lavoro, grazie mille, ciao. Con Francesca Stasch di Ugo, per parlare del prossimo appuntamento, Ugo on the road, da Roma all'Agnane Festival, martedì 16 luglio 2019. Francesca, ben trovata. Grazie, ben trovati tutti. Perché on the road? Allora, è on the road perché Ugo è un progetto che è di un collettivo, è molto corposo, partecipano sempre molte persone, e lo volevamo così, perché quando abbiamo pensato di farlo volevamo proprio agglomerare più talento possibile in un palco, nello stesso palco. Poi però ci siamo resi conto che con questa formula era molto difficile portarlo in giro, quindi, no? Perché chiaramente il momento in cui porti in giro 8, 9, 10 performance più tutte le autrici eccetera, diventa un grande carrozzone. Allora abbiamo pensato quest'inverno che volevamo trovare una formula che fosse più agile, che permettesse al format di viaggiare, no? E quindi è stato abbastanza rapido il collegamento con On The Road, e l'idea è che non siamo più 8, 9, 10, siamo di meno e facciamo più pezzi, ciascuna performer fa più pezzi, quindi Ugo on the road avranno 3 quattro performer al massimo, però faranno pezzi che sono già andati a Ugo, quindi che sono già rodati e già, diciamo, approvati tra virgolette dalla direzione artistica di Ugo, quindi rappresentativi. E quindi, insomma, adesso quello che succederà, l'abbiamo già fatto l'on the road per Milano, al Che Pensi Mi, abbiamo testato questa formula e adesso lo rifacciamo anche all'Aniane Festival. E in scena ci saranno Carmen Barbieri, Sara Borzarelli, Annalisa Dianti Cordone e Viviana Strambelli, che è una cantante, attrice, fotografa, mille cose, che ha questo progetto musicale che si chiama Lamine, e ognuna di loro avrà due interventi. E questo era per dire, appunto, che questo è l'Ugo che sta in una banda, perché comunque quattro persone, poi le giro lo metti dietro, le cosette che ti servono le metti dietro, sì. L'idea era questa, un Ugo che sta in una banda. Concentrato, una compilation del best of, insomma. Sì, saranno sempre best of, nel senso che questa formula non prevede il pezzo inedito, che è invece una caratteristica del formato di Ugo originale, no? Dove devono essere sempre tutti pezzi nuovi. Sì. Quindi in questo senso, diciamo, è un Ugo sia concentrato sia approvato col bollino, no? Quindi con i pezzi che secondo noi sono più interessanti, più forti e più particolari, insomma. Per chi non conoscesse ancora la formula, ce la descrivi? Ma adesso la conoscono tutti, dai. Non è possibile, insomma. Non è possibile che ancora qualcuno nel 2019 quasi 20 non sappia che cos'è Ugo. Allora, la formula sono pezzi sotto gli 8 minuti con performer, attrici, autrici che si alternano su un palco senza presentatore, intervallati da stacchetti di musica elettronica, quindi è uno spettacolo comico, brillante, accoglie tutti i generi, nel senso che andiamo dal teatro canzone al reading, al surreale, alla stand up. Infatti spesso ci dicono Ugo è stand up. No, non è solo stand up, c'è anche la stand up dentro Ugo, per carità, anzi ci piace un sacco, ma facciamo anche un sacco di altre cose. Sì. E quindi è proprio un progetto, un collettivo, una posse, insomma tante cose, un palco anche dove provare, dove mettersi alla prova, dove sono sempre accette tutte le persone che fanno qualcosa di strano, di originale, con un punto di vista particolare. E poi sì, c'è quella cosa che siamo tutte donne, però come sai? Quel particolare. Quel particolare, siamo tutte donne, che tutti quanti è la prima cosa che vedono. Io vorrei che fosse l'ultima, no? Perché però è chiaro che è una delle caratteristiche, anche quella, però appunto fa un po' strano che gli spettacoli con tutti i maschi non sono spettacoli al maschile, invece quelli con tutte femmine sono subito al femminile. Certo, non si sa perché. Ma piano piano si cambierà anche questo, si cambierà anche questo. Ecco, a proposito di caratteristiche, visto che sei una delle fondatrici e delle anime di questo progetto, volevo chiederti quali sono a tuo avviso gli elementi qualificanti di Ugo e come si sta sviluppando nel corso del tempo. Gli elementi qualificanti sono sicuramente questa varietà di stili e il fatto che, proprio perché mettiamo in scena appunto tutta questa gente, poi facciamo anche un sacco di riunioni estenuanti, facciamo anche gli aperitivi per conoscerci, insomma, siamo una delle cose proprio belle e edificanti è questo fatto di aver creato delle connessioni, delle sinergie, degli incontri veri, reali, no? Ma fra persone che magari non si incontrerebbero normalmente, cioè è normale che per esempio se tu fai stand up ti conosci gli altri stand up perché vai a fare gli open mic, vai a fare le cose, se tu fai l'attrice e fai le tournée conosci i tuoi colleghi che se lo fanno di tutto, invece abbiamo cercato proprio di creare un luogo dove si poteva contaminare, dove persone, artiste, performer, creatività diverse si sono mischiate, questo allora importante. Come si sta sviluppando? Guarda, questo noi in realtà navighiamo abbastanza a vista perché quasi tutto quello che ci è successo non ce lo aspettavamo e quindi la verità è che ancora non so bene cosa dirti con certezza su quello che succederà l'anno prossimo e su come si evolverà. Certamente dal primo anno dove facevamo un evento molto alternativo all'interno degli open space di Radio Rock, sto passando un aereo, all'interno dell'open space di Radio Rock, quindi in una situazione estremamente rock and roll, interessante, però dovevi proprio andare lì, dovevi proprio andartelo a cercare, eccetera. Adesso siamo andati in un palco che è più grande, più bello, più accogliente, all'interno di una anche più legittimato, no? Quello del Monk, anche lì all'interno, in un locale che non fa teatro, fa mille cose, è una realtà culturale molto diversificata. E quindi già per noi questo è stato il primo. Adesso quale sarà il secondo step? Non lo sappiamo, sicuramente torneremo al Monk per la prossima stagione, questo è assolutamente fuori di dubbio. Stiamo cercando anche di capire come possiamo fare, come possiamo declinarci anche in nuove forme, però ancora non è definito, quindi non ti so dire. Ci lasci i riferimenti internet per sapere tutto su di voi? Allora, c'è una pagina Facebook, Ugo, scritto tutto maiuscolo, c'è un astronauta. E poi abbiamo anche un Instagram che è @ugo_format. Ci potete scrivere lì. Fra l'altro noi appunto siamo sempre molto aperti anche a, se ci volete mandare testi, se ci volete mandare proposte, noi siamo sempre molto aperti. Invece per martedì è il 16 luglio all'Aniane Festival alle ore 22, che prima c'è la presentazione del libro di Lorenza Pieri con Tiziana Loporto, organizzata da Inquiete, e poi ci siamo noi. I testi sono i miei, di Nicole Balassone e di Veronica Raimo, ci tengo perché noi facciamo anche questa commissione attrici-autrici, e poi ci sono dei testi di Annalisa, di Anticordone e di Sara Borsarelli anche. E anche Laura Loaster, Spada Eterna. Quindi sì, ho detto tutti e nessuno si può arrabbiare. Un saluto e un ringraziamento a Francesca Staci, un abbraccio e a presto. Grazie mille, grazie. Con Daniele Fabbri per presentare il suo nuovo spettacolo Fake Minismo a Roma, Lunga Vita Festival all'Accademia Nazionale di Danza, giovedì 18 luglio 2019. Daniele, ben trovato. Ciao, ben trovati a tutti quanti e quante. Ciao. Come lo descriveresti in breve questo lavoro? La cosa di cui ho più paura da quando ho iniziato a fare satira in vita mia, questo. No, lo descriverei come in realtà uno step abbastanza importante per il mio lavoro di comico, perché fondamentalmente io mi sono occupato tantissimo per tanti anni di temi più strettamente politici, il fascismo, cose così, oppure la religione, che è uno dei capisaldi del mio lavoro da quando ho cominciato 10 anni fa. E in realtà io negli ultimi anni mi sono moltissimo avvicinato, diciamo, ai temi del femminismo, della lotta in generale per la parità di diritti, la parità di genere e tutto quanto. E questo devo dire che è uno dei temi, nonostante dovrebbe essere uno dei temi più importanti e più popolari, di cui non si dovrebbe fare altro che parlare giorno e notte, credo che sia uno dei temi più ostici in assoluto, perché è talmente tanto complesso l'argomento, è talmente così tanto radicata nella nostra società a tutti i livelli possibili e immaginabili, un tipo di cultura invece molto maschilista, molto patriarcale, che è veramente molto complicato saper gestire tutte le tensioni che ci sono dietro in uno spettacolo comico, quindi uno spettacolo in cui lo scopo è quello di ridere di certe cose senza voler assolutamente sminuire il contesto che c'è dietro. Quindi diciamo che è un lavoro da fare con molta molta attenzione, ecco. È delicato in partenza anche rispetto al fatto che è un uomo a parlare di femminismo, questo mi sembra un avvio, ecco, molto delicato. Questa è la parte più delicata di tutte, diciamo, anche perché fondamentalmente io chiaramente parto da una posizione assolutamente di sostegno nei confronti di tutto ciò che è femminismo, e quindi è vero che sono un maschio, ma non sento minimamente l'esigenza nello spettacolo come nella vita di dover in qualche modo difendere la mia posizione di maschio nei confronti di certe cose, anzi l'atteggiamento e la narrazione dello spettacolo è proprio l'opposta, cioè io so, ho capito che questi sono temi che vanno abbracciati, sono temi che vanno studiati, sono temi che vanno compresi, e quindi il punto di partenza dello spettacolo è quella di un maschio cis etero, che però è assolutamente volenteroso del voler prendere coscienza di tutto ciò che significa abbracciare il femminismo, capire il femminismo, non solo capire le ragioni del femminismo, ma capire soprattutto come fare ad abbracciare il femminismo come scelta etica. E però chiaramente le difficoltà che io mi trovo davanti sono le difficoltà di un maschio che è stato cresciuto in una società patriarcale, maschilista, oltretutto io vengo da un'educazione fortemente cattolica che aggiunge problemi su problemi, e quindi è fondamentalmente il racconto di un maschio che ci mette tanta buona volontà e ha anche tante difficoltà a cercare di capire certe cose, e si creano i paradossi comici che poi sono quelli che servono fondamentalmente a giocare con la tensione emotiva che c'è dietro gli argomenti. Oh Daniele, la locandina è d'impatto con questa tua foto in primo piano truccato? Sì, che in realtà io spero che nel 2019 non abbia nemmeno chissà quanto impatto vedere un uomo truccato, perché poi è vero che è una cosa che sì, serve chiaramente ad attirare l'attenzione, ma io spero che attiri l'attenzione soprattutto perché semplicemente sia bello, non perché sia chissà quale oggetto di scandalo un uomo truccato. Cioè, siamo nel 2019, questa cosa dovrebbe essere nemmeno così troppo importante. Poi so che in un paese come il nostro invece questa cosa possa creare chissà già quanti tipi di contrasti, attira l'attenzione per motivi piuttosto che per altri, ma è proprio questo il significato di fake minismo, cioè tutto ciò che riguarda il femminismo che è oggetto di dibattito tra le persone comuni, diciamo, quindi non ai livelli di chi il femminismo lo porta avanti in maniera divulgativa, ma nella vita di tutti i giorni, sono tutte cose che noi sappiamo per sentito dire, cioè il femminismo che noi conosciamo è quello, è il femminismo per sentito dire, l'idea che il femminismo significhi che le donne sono migliori dei maschi, l'idea che il femminismo significhi che ogni volta che una donna raggiunge una posizione di prestigio o di potere sia automaticamente una vittoria di tutte le donne, l'idea che il femminismo sia una guerra agli uomini, sono tutte cose che noi così per sentito dire alla leggera acquisiamo e poi però ne facciamo oggetto di dibattito e quindi anche di scontro con le persone che abbiamo davanti. E la stessa cosa era in piccolo la locandina, cioè il fatto che io sia un maschio truccato sembra che voglia dire chissà che cosa, in realtà è semplicemente io truccato sono molto più figo che non truccato, quindi mi fa una bella locandina, l'ho fatto, punto e basta. Senti, come in parte già lo hai spiegato, però come hai deciso di strutturarlo, lo spettacolo? Allora, lo spettacolo è per la stragrande maggioranza un racconto di esperienze personali, quindi fondamentalmente io parto dal fatto che io sono stato fidanzato per gran parte della mia vita, cioè ho due relazioni molto importanti che sono durate in tutto 14 anni e adesso è poco più di un anno e mezzo, circa quasi due anni che sono single e chiaramente dovendo ricominciare ad approcciare, a fare nuove conoscenze, nuove amicizie, a interlacciare le nuove relazioni, ho capito che fondamentalmente oggi le donne che ho frequentato soprattutto hanno, diciamo, una forte consapevolezza della battaglia che si sta agendo in questo periodo per, diciamo, un riequilibrio paritario della condizione sociale tra uomo e donna, e nonostante tutto ho visto anche che ogni donna che ho frequentato ha comunque le sue idee che non corrispondono sempre quel discorso che dicevo prima, che sì, il femminismo che noi conosciamo in generale come lotta per la parità ha poi mille sfaccettature che non tutti però conoscono bene, sia uomini che donne. E quindi il mio intento è stato quello di cercare proprio banalmente di dire ok, io mi trovo di nuovo a essere single, il mio scopo è quello di conoscere delle donne, di piacere alle donne, quindi cerchiamo di capire che cos'è che vogliono le donne, che cos'è che piacciono le donne, però senza fare l'errore che fanno tipicamente i maschi, cioè di chiederselo tra maschi che cos'è che piace alle donne, facciamo che lo chiedo alle donne. E quindi ho cominciato a frequentare ragazze non soltanto per diciamo scopi personali, ma proprio per approfondire certe cose. E quindi io racconto per esempio di aver parlato moltissimo con una mia amica che è un'ex calciatrice, e parlando di calcio femminile si parla della discriminazione in ambito professionale, nei confronti delle donne. Oppure ho parlato per esempio con un'altra mia amica che è una fotomodella e parlando con lei si parla di qual è l'ambiguità del rapporto degli uomini nei confronti della sessualità femminile, cioè non ce l'hanno questo rapporto, nel senso che i maschi pensano in maniera completamente solamente egoistica e non si preoccupano mai di interagire con la persona che c'è dietro. E quindi attraverso tutta una serie di racconti come questi poi io faccio le mie analisi e sono analisi personali, perché chiaramente da una parte c'è il mio senso civico che auspica ovviamente a una società più giusta, una società più equa, da una parte c'è semplicemente il mio egoismo di maschio etero che sì, spera soltanto di avere una vita sessuale e sentimentale felice, però che si rende conto che questa vita sessuale e sentimentale felice non si può ottenere come si pensava di ottenerla fino a poco fa, quindi è fare lo sforzo per diventare un tipo di maschio etero a cui piace il sesso, a cui piacciono le donne, che però non tenta di ottenere né il sesso né i rapporti con le donne nella vecchia maniera, ma cerca di capire qual è la maniera nuova, tutto qua. Ho considerato che è la prima volta che ci sentiamo, per chi ci ascolta raccontiamo anche in estrema sintesi il tuo percorso artistico, Daniele. Sì, allora io sono un comico satirico, quindi sono un monologhista comico che mi sono sempre occupato di temi molto controversi, perché la satira originariamente, anche se adesso non è più tanto questo quello che arriva dalla satira in generale, ma la satira originariamente è una forma di arte che sfrutta la comicità per parlare di temi che siano poco divertenti in generale nella vita di tutti i giorni, quindi i temi più difficili come la sessualità, la paura della morte, la religione che è uno dei grossi tabù sociali di cui non si parla mai, l'oppressione soprattutto della religione. E quindi io sono un comico, un attore comico che si è sempre occupato di fare comicità sulle cose in cui c'è tensione nella società. Questo è il mio ennesimo spettacolo, io ho cominciato a fare spettacoli comici 10 anni fa e mi sono sempre occupato principalmente di temi religiosi, perché io vengo da una famiglia super super cattolica e quindi mi sono occupato di religione, ma soprattutto non tanto della religione dal punto di vista diciamo teorico, ma soprattutto dal punto di vista emotivo, cioè parlare del perché nonostante siamo nel 2019 e gran parte della società ormai è disinteressata alla religione in senso stretto, però continuiamo ad essere una società in cui ancora le persone, che ne so, si sposano in chiesa per fare un piacere alla famiglia, battezzano i figli perché sennò i parenti ci rimangono male, e questo però continua ad alimentare potere che la Chiesa cattolica ha nella nostra società, che è quello che poi permette alla politica di comportarsi in un certo modo quando si tratta di battersi per i diritti delle donne. Quindi lo stretto legame che c'è tra battezzare i propri figli perché sennò nonna ci rimane male e il fatto che quindi poi in Parlamento ci siano dei politici che riescano a fare le leggi contro l'aborto, perché il potere cattolico comunque è quello che è. Poi a questi temi chiaramente ci ho affiancato anche delle cose un pochettino più strettamente politiche, come per esempio il tema dell'antifascismo. Io l'anno scorso ho portato in giro uno spettacolo che si chiama Fascisti su Tinder, perché il tema del fascismo in Italia è vissuto male, nel senso che viene vissuto come se fosse una bazzecola di quartiere, e invece anche lì è la radice di tutto il male che ci abbiamo anche nella politica odierna, è lì la base del fatto che la cultura italiana sia una cultura ancora palesemente di matrice fascista, poi che non sia più il fascismo mussoliniano, quello vabbè, perché sono passati dei decenni, ma il fascismo di oggi è né più né meno che la versione 2.0 di quello vecchio. Quindi fondamentalmente anche passaggi come questo in cui si fa difficoltà a parlare di fascisti in Italia, perché sembra che i fascisti siano una cosetta soltanto che riguarda lo 0, delle elezioni, e invece quel fascismo lì è semplicemente la faccia che noi già conosciamo bene del fascismo che ci si sta predisponendo ai giorni nostri. Queste argomentazioni le ho sempre portate avanti con i monologhi dal vivo, perché sono la forma meno censurabile di comunicazione e di spettacolo. Io ho lavorato tantissimo anche in televisione, sceneggio fumetti satirici, e però chiaramente i temi che io affronto sono sempre molto molto censurabili dal punto di vista di un editore, perché l'editore non ha interesse a frugugliare gli animi delle persone, l'editore ha interesse a che la gente stia tranquilla. Il problema è che la satira invece cerca proprio il contrario, la satira cerca di frugugliare nelle tensioni delle persone per indurle a riflettere, e lo fa utilizzando la comicità. Perché? Perché io voglio che tu rifletta su una cosa, non voglio metterti in difficoltà perché mi stai antipatico, quindi utilizzo la satira perché sei mio amico. E proprio perché sei il mio amico ti faccio ridere, ma ti faccio ridere cercando di dirti: vogliamo pensare meglio a questa cosa? Quindi la stand-up comedy in realtà, che è una forma di intrattenimento popolare, estremamente popolare, perché è spettacolo comico di un tizio che parla alla gente, quindi è la forma di comicità e di interazione artistica più basilare, è anche in realtà, per chi vuole fare satira, la forma ideale per farla e soprattutto la forma ideale per ascoltarla. In chiusura, Daniele, ci lasci i riferimenti web per saperne di più sullo spettacolo e sul tuo lavoro in generale? Allora, io sono molto presente su qualsiasi piattaforma, in realtà, sono molto presente sui social, su Facebook, su Instagram. La cosa che ci tengo di più in realtà è il mio canale YouTube. Io ho un canale YouTube che sto cercando di curarmi come un piccolo youtuber, e lì per esempio ci sono, tra l'altro, molto, che sono molto attinenti al tema, ci sono dei video che io ho realizzato quando, durante quest'inverno, scrivevo questo spettacolo, perché io per scrivere questo spettacolo ho fatto delle mini interviste che poi ho messo in video e ci ho affiancato dei piccoli test di battute. Per esempio, quando prima di giro ho parlato con la mia amica ex calciatrice, la nostra chiacchierata io l'ho filmata e poi ho fatto il video in cui si vede noi che parliamo di quello che lei mi racconta, e tempo dopo io che provo, cioè che faccio le battute in pubblico sulle cose che lei mi ha raccontato. Quindi diciamo che ci sono dei piccoli trailer su questo canale YouTube dello spettacolo che farò il 18. Bene, ricordiamo Femminismo a Roma, Lunga Vita Festival all'Accademia Nazionale di Danza, giovedì 18 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento al comico Daniele Fabbri. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, un abbraccio a tutti e a tutte. Ciao ciao. Con Alessandro Di Somma del Teatro Studio 1 per parlare di Pillole al Teatro Studio 1 a Roma dal 19 al 28 luglio 2019. Alessandro, ben trovato. Salve, ciao Federico, salve a tutti. Ci racconti? Sì, vi racconto questa ennesima edizione di Pillole, che è il modo in cui il Teatro Studio 1 seleziona gli spettacoli della stagione. Noi abbiamo fatto una call agli artisti, ci sono arrivate quasi 200 proposte, di queste ne abbiamo selezionate una quarantina e vedremo questi 12 minuti di progetti di spettacolo in queste serate aperte a pubblico e critica del nostro spazio, per selezionare gli spettacoli che faranno parte della stagione 2019-2020 del Teatro Studio 1. E l'ultimo giorno, il 28 di luglio, i progetti più interessanti che abbiamo visto durante le giornate di Pillole si esibiranno al Teatro Quarticciolo, perché abbiamo aperto una collaborazione con i ragazzi del Quarticciolo, e quindi si riserveranno di scegliere qualche spettacolo anche per la loro stagione, quindi questa è la nostra proposta. Le cose che si vedranno sono proprio questi 12 minuti di progetti di spettacolo, quindi la messa in scena è a totale discrezione della compagnia, quindi si possono fare letture o mise in spazio, oppure 12 minuti proprio dello spettacolo come sarà poi intero. Il pubblico, i giornalisti e la critica ci permetterà di scegliere la nuova stagione del teatro. Com'è stata la scelta, Alessandro? Guarda, molto dura, perché quest'anno veramente abbiamo visto tantissimi oggetti interessanti e è stato veramente difficile sceglierne solo 40, quindi siamo stati molto combattuti, e la scelta è sempre legata anche al contestualizzare in un teatro come il nostro, che è un teatro di 50 posti e situato in un quartiere come Torpignattara, che è un quartiere che ha bisogno anche di un suo respiro, di spettacoli che parlino anche a un pubblico come quello del nostro teatro. Quindi la scelta è sempre su drammaturgia contemporanea che parli del presente,

che noi vediamo un oltre come accettazione di una diversità e quindi di una ricchezza, come dire, a me piace molto, cioè ci tengo molto anche da questo punto di vista, oltre al fatto artistico e chiaramente emozionale di quella data così importante. Come si strutturerà la serata? Sarà un concerto, in verità, anzi, diciamo che un insieme, il Maxi propone una serata sulla Luna con una mostra, tra l'altro pare stanno lavorando anche all'idea che addirittura Parmitano possa mettersi in collegamento dalla stazione spaziale nel pomeriggio, e poi alla fine alle 21 ci sarà questo concerto, che è un concerto audiovisivo. Io rappresento in musica quelle che possono essere le emozioni, ma faccio il percorso proprio, cioè nel senso che ho composto un brano, Lift Off, che è proprio l'inizio, c'è la partenza, poi la sospensione nell'atmosfera, l'atterraggio sulla Luna, il rientro sulla Terra, e per poi pensare a tutte le prossime missioni, come appunto l'idea di un oltre, l'idea che andiamo ad esplorare nuovi territori, insomma, nuove possibilità. Per quanto riguarda le immagini, di che tipo saranno? Le immagini sono delle immagini di repertorio della NASA e dell'ASI, parte NASA e parte ASI, Agenzia Spaziale Italiana, che noi le abbiamo viste a suo tempo, quelle immagini le abbiamo viste tutte in bianco e nero perché non c'era il colore, e invece ora le vedremo bianco e nero, quindi ho fatto un percorso io di collage e montaggio di una sorta di film, di video che accompagnerà tutto il concerto. Vedo dalla locandina due figure con cappuccio ma senza volto in uno sfondo di stelle. Sì, è un po' l'idea di appunto di essere degli astromusicisti, cioè di metterci in connessione con i suoni anche dello spazio, e quindi una sorta di immersione in una specie di navicella sonora. Sarà pensato anche molto così, anche la parte, diciamo, luci è pensata proprio come se emulasse una sorta di navicella spaziale che è solamente musicale, ovviamente, però insomma la musica ci dà anche la possibilità di sognare qualcosa che è al di là della realtà, quindi insomma lo trovo divertente e anche, come dire, un po' un gioco. Per quanto riguarda la musica, sono tutte composizioni vostre oppure vi avvalete anche di musiche già fatte? No, devo dirti che abbiamo fatto, io ho voluto questo lavoro insieme a Giulio Maresca, che tra l'altro è l'altro astromusicista che collabora da me, collaboriamo a progetti insieme da tanto tempo. Abbiamo pensato di fare due rivisitazioni completamente nuove, elettroniche, di due brani importanti del tempo. Uno era As and Them dei Pink Floyd, che tutti conoscono benissimo, insomma, perché è stato un disco epocale, è stato un pezzo importante anche del disco Dark Side of the Moon, e l'altro è Space Oddity dei Boy, che tra l'altro ho pensato proprio per la missione spaziale Apollo 11 del 69. Quindi abbiamo coinvolto anche degli amici artisti importanti, insomma, italiani, c'è cioè Pasquale Catalano, che è un noto compositore di musiche da film, che ha firmato un brano, e Danilo Rea, con quale abbiamo collaborato e abbiamo pensato la musica per il rientro degli astronauti sulla Terra. Ci dai anche tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, lo troverete sicuramente sul mio Instagram, MartuxM, tutte le notizie, le trovate anche sul mio Facebook, su quello troverete insomma la maggior parte delle cose, quindi chi ci segue via social potrà farti un giro sui due principali, che sono Facebook e Instagram, e troverà tutte le notizie legate a questo progetto. In chiusura, per chi ci ascolta, raccontiamo anche un po' brevemente il tuo percorso artistico. Sì, certo, volentieri. Beh, insomma, diciamo che un percorso, insomma, io ho iniziato molto presto con l'elettronica, quando l'elettronica insomma non era proprio così una musica così seguita come oggi. Intorno agli anni 90 ho fondato tantissimi gruppi di sperimentazione, ricordo tra questi Metaxu, Ossatura, Dogon, e poi insomma, dopo quel periodo fortemente sperimentale con tantissime collaborazioni, tra queste cinque sicuramente con Danilo Re, abbiamo fatto tanti lavori insieme, con Marco Stockhausen abbiamo fatto un disco insieme, poi ci sono stati tutto il periodo, diciamo, l'omaggio a Miles Davis, insomma mi è sempre piaciuta una elettronica che fosse con i linguaggi contemporanei, ma che avesse anche dei riferimenti musicali, diciamo, non strettamente dance, come dire, non fosse incanalata in quello che solitamente l'errore che si fa, diciamo, spesso è quello di pensare che l'elettronica è legata soltanto alla musica dance, alle discoteche. No? L'elettronica è una musica ormai autonoma che ha anche importanti artisti che prendono proprio la parte musicale usando chiaramente il linguaggio elettronico. Questo è stato un po' il mio percorso degli ultimi 10 anni, sicuramente. Ricordiamo l'appuntamento con Apollo 11 Reloaded a Roma, al Maxi, sabato 20 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento all'artista Martux M. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi, vi aspetto tutti il 20 al Maxi alle ore 21. Grazie. Ingresso gratuito, tra l'altro. Ingresso gratuito, quindi non c'è, c'è solo da essere curiosi. Con Paola Varesi del Museo Cervi per presentare la 18ª edizione del Festival Teatrale di Resistenza, premio Museo Cervi, Teatro per la Memoria. Casa Cervi, Gattatico, provincia di Reggio Emilia, dal 7 al 25 luglio 2019. Paola, ben trovata. Ben trovati a voi e grazie dell'ospitalità, molto, molto lieti di essere con voi. Ci racconti di questo festival? Molto volentieri, appunto 18 anni che proponiamo questo progetto che nasce nel 2001 negli spazi interni del Museo Cervi con un carattere già allora e che conserva ancora di militanza, ovvero per la necessità e con la volontà di attualizzare la resistenza, attualizzare la memoria e guardare alle resistenze che le donne, gli uomini, le comunità, i cittadini, le cittadine vivono ancora oggi. Nel tempo il progetto si è ovviamente consolidato e era una scommessa, non era scontato. Si è consolidato, si è ingrandito, le serate da 2-3 che erano inizialmente sono diventate 7, in memoria anche dei 7 fratelli Cervi, e si sono collocate stabilmente nel mese di luglio secondo uno schema, fra virgolette, che si ripropone ormai da anni, del debutto il 7 di luglio, data storica importante perché ricorda i martiri operai reggiani del 1960 uccisi dal governo Tambroni nel corso di una manifestazione sindacale, e si conclude il 25 luglio, che è la data della storica Bastaciuta antifascista che i Cervi avevano offerto all'indomani della caduta del governo di Mussolini, la notte tra il 24 e il 25 luglio del 43. Chiaro che poi dopo la resistenza doveva cominciare ancora tutto, ci saranno ancora anni di guerra, ma in quel momento l'Italia sembrava insomma vivere un momento di liberazione proprio per la caduta del governo di Mussolini. Quindi secondo questi punti fermi sostanzialmente di temi e di serate, selezioniamo altrettante compagnie, ovvero 7, che rispondono a un bando di concorso che viene lanciato a gennaio-febbraio, sono compagnie che arrivano da tutta Italia, che rispondono a tutta Italia, e anche quest'anno sono state selezionate 7, la selezione è sempre un po' difficile chiaramente perché sono tante le compagnie che rispondono e questo significa che il teatro è sul pezzo, cioè il teatro rappresenta quello che viviamo, ne parla e forse più ancora prima di chi ci ragiona per mestiere, vale a dire storici, analisti, politici, giornalisti, proprio entra come una lama nel nostro presente e c'è l'urgenza di parlare da parte del teatro e c'è l'importanza di dare spazio a questo teatro. Come saranno articolate le giornate? Sono 7 giornate, debuttiamo appunto il 7, poi si va avanti il 10, il 13, il 16, il 19, il 21 e il 23, e gli spettacoli sono sempre collocati la sera, ovviamente al momento del calar del giorno. Le compagnie agiscono all'aperto in questo spazio che è poi ricavato dal terreno lavorato dalla famiglia Cervi, quindi una forte sinergia anche col luogo della memoria sostanzialmente. E dopo lo spettacolo c'è la cosa carina, sempre molto apprezzata dal pubblico, dell'intervista alle compagnie a cura di personaggi esponenti del mondo della cultura, del teatro, cosa che facciamo con una piccola degustazione anche di prodotti del territorio. E questo è un elemento che, insomma, non so come dire, è un momento di riflessione, di rilancio dei temi, di spazio collettivo, ecco, che è sempre molto gradito, anche perché la compagnia entra nel merito dei propri progetti, delle proprie intenzioni, il pubblico fa domande, e in uno spazio che peraltro, insomma, suggestivo per le agganci, che evoca memoria, ma per le agganci che ha col presente, e dove poi si misurano anche dei produttori, dei piccoli produttori locali, che e questo è importante perché c'è il riconoscimento del fatto culturale, non so come dire, che è un fatto non accessorio ma fondamentale per ricreare, soprattutto in questo momento, riflessione, riprendere in mano un po' i nostri pensieri, creare anche, non so come dire, ribaltamenti, pensieri coraggiosi, insomma, in un momento in cui ce n'è bisogno. Per cui, insomma, ci sono anche queste sinergie che si creano proprio sul territorio, con chi opera sul territorio, quindi c'è questo livello nazionale, locale, che funziona molto bene, direi. Paola, ci racconti anche un po' l'attività del museo? Museo che ultimamente preferiamo chiamare anche casa museo, perché è una casa dei valori, dell'antifascismo, nasce come sviluppo della casa abitata dai fratelli Cervi all'inizio del Novecento, e dove poi la famiglia Cervi vive gli anni 30 dell'antifascismo, crea una militanza e dove organizza materialmente la prima banda partigiana, perché i fratelli Cervi, c'erano anche due sorelle peraltro, erano in 9, organizzano materialmente la prima resistenza civile subito dopo l'8 settembre lì sul territorio, e infatti sono i primi partigiani ad essere fucilati. Per loro non si usa neanche il termine partigiani, cioè lo si usa, ma vengono fucilati il 28 dicembre del 43, quando ancora la resistenza deve fare, insomma, i suoi passi organizzativi. Sono la prima banda di ribelli cosiddetti dai fascisti, che per un atto intimidatorio che si voleva fare nei confronti della popolazione, che cominciava, insomma, a manifestare pesantemente il proprio malumore, vengono uccisi. E nel tempo questo museo, che nasce per volontà della gente, non c'è nessun atto che dice che ad un certo punto la loro casa diventa museo, ma nasce proprio come presa di atto della volontà della gente, che è arrivata sempre in grande quantità a visitare quel luogo della memoria, diventa un museo con tutte le strutture, i carismi culturali, di accoglienza, ed è un luogo in cui si fa attività didattica, in cui si fa attività di educazione nei confronti dei giovani, in cui si fa ricerca, in cui si fanno iniziative come il Festival di Resistenza, in cui si celebra un grossissimo 25 aprile che forse è uno dei più importanti nel nord Italia, e si cerca soprattutto di innovare i linguaggi della memoria e della ricerca attraverso anche queste modalità come quella del teatro, del festival, adottando proprio dei linguaggi che sono più vicini, insomma, alla gente, che non le mediazioni degli storici, della saggistica, che è più pertinente al fatto che siamo comunque anche un ente di ricerca. È un'attività intensa che guarda i giovani, ma anche i meno giovani. Oggi c'è bisogno di parlare sia ai giovani, e abbiamo tantissime attività con le scuole, ma è anche molto importante parlare con le generazioni un po' meno giovani, che hanno bisogno. Vengono tantissimi visitatori al museo che hanno bisogno di un punto di riferimento, come di trovare un bandolo, ecco. Paola, in chiusura ci dai i riferimenti internet per sapere, sì, tutto? Assolutamente, vi do i riferimenti internet, che sono il nostro sito www.istitutocervi.it. La nostra mail, se può essere utile, info@istitutocervi.it, e poi siamo anche su Instagram @istitutocervi. Perfetto. E Facebook sempre @istitutocervi. Quindi, insomma, grazie dell'ospitalità e vi aspettiamo numerosi. 18ª edizione del Festival Teatrale di Resistenza, premio Museo Cervi, Teatro per la Memoria, a Casa Cervi, a Gattatico, dal 7 al 25 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Paola Varesi. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie mille a voi, ci aspettiamo, grazie. Con Francesca Nodari, direttrice della 14ª edizione del Festival itinerante Filosofi lungo l'Oglio, dal 4 giugno al 21 luglio 2019. Francesca, ben trovata. Ben trovati a tutti i radioascoltatori e molte grazie per questa chiacchierata, ciao Federico. Ci racconti, partendo proprio dagli inizi, com'è nato questo festival? Beh, questo festival è nato 14 anni fa, è nato quasi come una scommessa per il grande desiderio e la passione di riportare, come si suol dire, il filosofo e il pensatore in mezzo alla gente, in quella che nel nostro immaginario chiamiamo agorà e vorremmo sempre sentire, vivere in maniera incarnata l'agorà, lo stare attorno, fare cerchio intorno al maestro. Siamo partimo con 5 incontri e poi di anno in anno questo festival è cresciuto, a me piace chiamarla creatura perché di fatto di questo si tratta, e ha avuto l'adesione quest'anno di ben 25 comuni che appartengono a 3 province diverse. E infatti una delle peculiarità del nostro festival è proprio quella di essere un festival itinerante, e quindi fedele a questo spirito di una sorta di nomadismo del pensiero, ad ogni data cambiamo sia relatore sia luogo che non può mai essere un non luogo, per 2 ragioni. Innanzitutto perché la scelta è molto importante, ciò che fa da teatro al festival deve offrire allo spettatore sempre molto attivo, quello del festival, anche la possibilità di fruire delle bellezze storico, artistiche del territorio, e poi perché quando si fa comunità e ci si ritrova al festival, subito si dà la possibilità che quel luogo davvero acquisisca la sua dimensione simbolica, antropologica, di incontro dell'uno con l'altro. Quest'anno il tema è generare. Sì, quest'anno il tema è generare, direi in linea di continuità con il tema dello scorso anno, che è stato condividere, che è stato un preambolo direi molto importante per poter quest'anno dedicarci e affidare alle riflessioni dei 27 relatori e relatrici che ci succederanno in questa sorta di maratona del pensiero, un tema che è molto importante, specialmente perché noi crediamo, credo, che attorno alla categoria della generatività ci sia molto da dire. Dobbiamo tornare ad essere, a diventare una società generativa, una società che non è più, come purtroppo oggi ci capita di esperire nella vita di tutti i giorni, accecata dalla cecità morale, accecata da un'indifferenza, accecata da una ipertrofia del soggetto e da un individualismo serpeggiante, e anche da quella che Maria Rita Passi chiama la sindrome rancorosa dell'ingrato. Si fa molta fatica a dire grazie, si fa molta fatica di incontrare l'altro nei propri occhi, e semplicemente si vivono delle vite, come dice Bauman, di corsa, dimenticandosi invece che la nostra stessa identità, come sappiamo molto bene, passa attraverso la spiritualità dell'altro, il rimando che noi abbiamo da parte dell'altro. Quanti saranno gli eventi e in cosa consistono? Gli eventi saranno, questi saranno i 27 lezioni magistrali che costituiscono il cuore del festival, come ogni anno, come è tradizione. Poi abbiamo 2 eventi che riteniamo estremamente importanti, l'uno che giunge alla sua 8ª edizione e che si svolgerà il 19 di luglio a Castegnato, sarà l'8ª edizione del Premio Internazionale di Filosofia, Filosofi lungo l'Oglio, un libro per il presente, un premio che intende onorare non soltanto il cursus honorum di chi dell'assegnatario, ma anche individuare in quella figura chi ha saputo davvero scrivere un libro, un testo che segni il nostro presente, che costituisca, se così si può dire, una sorta di vademecum per il nostro presente. E nei giorni immediatamente precedenti l'evento, come tradizione, nome del vincitore, quindi c'è anche un tentativo nostro da parte del festival di avvicinare la gente, di avvicinare il nostro pubblico, di avvicinare tutti i giovani in particolare alla lettura. Abbiamo tanto bisogno di leggere per imparare sempre e conoscerci sempre meglio, imparare sempre di più. L'altro evento diciamo importante che si svolgerà il 18 luglio, quindi giorno immediatamente precedente quello della premiazione del vincitore tra l'edizione internazionale di filosofia, sarà la serata sull'antimafia, una serata cui teniamo molto, organizzata da anni in partnership con la prefettura di Brescia, per la cui adesione noi al festival noi ci onoriamo, e che si intitola Generare Bene. Avremo due testimoni d'eccellenza del fare il bene, rischiare se stessi, tutto se stessi, come direbbe un grande filosofo quale Levinas per l'altro. Da un lato Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, e dall'altro avremo Maurizio Artale, presidente del centro Padre Nostro, la famosa opera di Don Pino Puglisi. Interverranno anche altre figure insieme al prefetto di Brescia. Ecco, io credo che ci sia molto bisogno di ribaltare, soprattutto in questo momento storico, quello che è l'asse in cui stiamo vivendo. Si sta, ribadivo, e mi scuserai se ritorno su questo come dire, pensiero che ritengo centrale, ci stanno anestetizzando nei confronti dei rapporti con l'altro. Stiamo in un certo senso respirando un'aria pesante, un'aria molto segnata dall'avversione nei confronti, nelle parole, nelle azioni, nei confronti dell'altro. Ecco, cerchiamo, il nostro sforzo è quello di ribaltare questo asse e di riportare al centro la persona, di riportare al centro il valore, la forza che ha l'altro nelle nostre vite, nella nostra esistenza, e soprattutto l'importanza della relazione. È come un grido, se mi consenti questa metafora, che continua a tornare e a diventare più forte di edizione in edizione, che tutti i relatori continuano a consegnarci, quasi fosse una raccomandazione, no? Quasi fosse un compito per ciascuno di noi. Attenzione a non perderci gli uni con gli altri, attenzione ad accorgersi che se si va in questa direzione si rischia davvero, e non per mera retorica, quella condizione dell'homo homini lupus di Hobbes. In chiusura ci lasci i riferimenti web per avere maggiori dettagli? Certo, i riferimenti web, abbiamo il nostro sito filosofilugologlio.it, poi ci sono ovviamente i canali social, Facebook, Instagram, sono tutti di me, sono tutti raggiungibili. All'interno del festival ci saranno poi anche una serie di eventi collaterali che potranno i nostri ascoltatori, se vorranno, trovare comodamente nel sito o nei vari canali che ho appena indicato. Allora ricordiamo la 14ª edizione del Festival itinerante Filosofi lungo l'Oglio, dal 4 giugno al 21 luglio 2019, a tema Generare. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Francesca Nodari. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio e grazie Crepi il Lupo, vi aspettiamo numerosi, grazie. Con Roland Boer, direttore artistico della 44ª edizione del Cantiere Internazionale d'Arte a Montepulciano e Valdichiana dal 12 al 28 luglio 2019. Roland, ben trovato. Grazie, buongiorno. Raccontiamo cos'è il Cantiere, è un festival storico. Sì, se vogliamo parlare un attimo della caratteristica del Cantiere come un festival non commerciale, quindi non è un vero festival nel senso che ci sono le aspettative che abbiamo come per un altro festival prestigioso veramente commerciale, no, infatti il fondatore Hans Werner Henze nell'anno 76 ha insistito di non titolare questa manifestazione un festival per fare una grande differenza e definire questo come un cantiere, veramente un laboratorio artistico dove si incontrano professionisti, artisti, musicisti veramente di grandissimo livello, di livello internazionale, di grande fama, con soprattutto le persone locali di Montepulciano, i poliziani, allora tutta la nuova generazione, iniziando nelle scuole elementari, anzi anche prima nell'asilo, collaborazioni con gli studenti dell'Istituto di Musica e altri gruppi e istituzioni a Montepulciano. La idea parte proprio in questo anno 76, quando Henze, che veniva a Montepulciano, si è innamorato completamente e appassionato dall'idea di stimolare una vera e propria vita culturale, no? E lui aveva questa visione che, come scrive nel suo saggio su politica e arte, che tutti i poliziani, giovani e anziani, potessero sviluppare la passione o almeno un interesse per tutte le forme di espressione artistica europea. E oggi, 44 anni dopo, siamo in grado di presentare una enorme quantità di eventi nei quali si fondono i diversi aspetti in questo anno della tematica, amore, passione, follia, in questa edizione con lo spirito particolare del cantiere, quello appunto del coinvolgimento e la partecipazione attiva della cittadinanza in collaborazione con questi artisti di fama nazionale e internazionale. Quanti saranno gli artisti e gli eventi? Ci saranno circa 450 partecipanti attivi. Abbiamo invitato grandi gruppi come al solito l'orchestra del Royal Northern College di Music di Manchester, ma anche per esempio un coro di Monaco, di Bavaria, e anche un coro di Norimberga. E anche altri grandi gruppi e tanti artisti individuali, e poi non dimenticare che, come detto prima, ad esempio la Petite École di Montepulciano, una scuola di danza, diciamo, e anche la École de Ballet di Sinalunga, che fanno parte di diversi progetti molto creativi, poi un gruppo di giovani attori o l'Accademia degli Arrischianti di Sarteano, solo per fare qualche esempio. Gli eventi saranno 46 eventi in 17 giorni, quindi una grandissima quantità. Chiaramente non tutti si svolgono a Montepulciano, ma coinvolgiamo anche i 7 comuni limitrofi che fanno parte della Fondazione Cantiere, chiaramente diversi luoghi come la Piazza Grande, il Teatro Storico Poliziano a Montepulciano, chiese come San Biagio, il grande tempio del Rinascimento, dove si svolge questo concerto corale con 3 cori, collaborazione internazionale, eccetera, eccetera. Per saperne di più sulla programmazione e sul calendario, ci dai riferimenti web? Sì, c'è il sito web della fondazione, quindi www.fondazionecantiere.it, si trova sul titolo Cantiere Internazionale, si trovano tutti i punti della programmazione, poi proprio prima dell'apertura del 12 si trovano anche tutte le biografie dei nostri artisti e tanta altra informazione in particolare, sicuramente. E allora ricordiamo la 44esima edizione del Cantiere Internazionale d'Arte a Montepulciano e Valdichiana dal 12 al 28 luglio 2019. Un saluto e ringraziamento al direttore artistico Roland Boer. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Sì, lupo, grazie dell'intervista, grazie mille. Buona giornata. Con Marco Pasquinucci, direttore artistico dell'ottava edizione del Festival delle Colline Geotermiche, in quattro comuni delle province di Pisa e Grosseto dal 12 luglio al 31 agosto 2019. Marco, ben trovato. Ben trovato a voi. Lo raccontiamo a chi non lo conosce? Sì, assolutamente. Questo è un festival estivo che ormai è già tutta l'ottava edizione, che in qualche modo porta in territorio che è l'Alta Val di Cecina, in quattro comuni, quella che è la drammaturgia contemporanea, il rapporto col teatro, e quindi una manifestazione che ha soprattutto la voglia di andare incontro alla gente, di far incontrare gli artisti e di creare appunto momenti di condivisione e di piacere in luoghi meravigliosi che sono quelli appunto dell'Alta Val di Cecina e delle colline geotermiche che danno poi il nome al festival, insomma. Com'era nato tutto? Tutto nasce 8 anni fa da un luogo particolare del territorio, nel comune di Pomarancio, che si chiama Rocca Fillana. Infatti fino all'anno scorso il Festival delle Colline Geotermiche in realtà non si chiamava così, si chiamava Fra Terra e Cielo, e il Festival delle Colline Geotermiche era solamente il sottotitolo. Ma è nato appunto come una piccola scommessa proprio della nostra compagnia di Officine Papage, che era appena diventata residente nel territorio, che ha voluto proporre una iniziativa estiva di 3 spettacoli, come fanno un po' tutti i piccoli gruppi all'inizio, si rivolgono ai propri amici, perché appunto le economie sono pochissime, e si è creato in questo luogo, che è una rocca a 500 metri di altezza, un posto veramente bellissimo dove si domina tutta la valle e si vede fino al mare, e sono stati appunto messi in programmazione 3 spettacoli, e si chiamava Fra Terra e Cielo perché la Rocca di Fillana, o Rocca Fillana, appunto è il punto di contatto fra la terra e il cielo, quel luogo particolare poi dove le storie germogliano e il teatro. Da lì pian piano in questa edizione appunto si è sviluppato, e prima ci siamo mossi appunto all'interno del comune di Pomarancio, poi pian piano anche in pari passo con lo sviluppo del progetto di residenza anche negli altri comuni, quindi è diventato proprio un festival diffuso che ora mette in rete il comune di Pomarancio, il comune di Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Monterotondo, proprio il cuore pulsante delle colline geotermiche, e andiamo proprio in quei luoghi lì. Faremo appunto spettacolo nel parco geotermico di Biancane con i Babilonia Teatro, con il Purgatorio, c'è cioè un luogo che sembra proprio l'inferno, quindi è un parco che fuma, la terra appunto emette vapore, per cui quale miglior titolo e quale migliore compagnia da accogliere in quel posto. Poi saremo appunto in tante piccole piazze e in luoghi all'aperto, quindi ecco, questa è un po' la genesi e lo sviluppo di quello che è il progetto delle colline del Festival delle Colline Geotermiche. Quanti sono gli eventi di questa edizione e quali sono stati i criteri di scelta? E quest'anno appunto abbiamo 10 eventi, diciamo che non c'è mai un filo conduttore specifico all'interno della scelta della nostra programmazione, se non la voglia, se non appunto il sostegno alla giovane creatività italiana, alla drammaturgia contemporanea e appunto alla qualità soprattutto. Quest'anno appunto abbiamo una linea legata anche alla classicità, in qualche modo si può leggere all'interno delle pieghe appunto della programmazione, infatti ci sono appunto come dire, riferimenti a Dante, come il Purgatorio, come ho detto prima, appunto di Babilonia Teatro, ma anche Shakespeareology, che debutterà subito dopo la presenza a Kilowatt Festival da noi all'interno appunto a Pomarance il 20 di luglio, giusto per darvi qualche data, e avremo poi Andrea Cosenzante con Cotino Riff appunto taglieterà il 15 d'agosto, avremo poi il grande debutto della Tempesta di Shakespeare, questa nuova produzione del Teatro del Carretto che appunto aprirà anche il festival il 12 di luglio. Quindi diciamo quest'anno un filone classico, però soprattutto legato alla nuova drammaturgia italiana in qualche modo. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? Assolutamente sì, potete seguire tutto l'andamento del festival sulla pagina appunto di Papage, che è appunto la pagina ufficiale del festival, dove troverete appunto anche tutti i video diari, ci sono appunto tutti gli appuntamenti video in una sorta appunto di diario continuo del festival, ma c'è anche un sito dedicato che è festivalcollinegeotermiche.cinepopage.it. Questi sono i riferimenti social, poi appunto c'è anche la pagina Instagram appunto di Officine Papage, dove ci saranno appunto tutti i riferimenti. Ottava edizione del Festival delle Colline Geotermiche in 4 comuni della provincia di Pisa e Grosseto, dal 12 luglio al 31 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Marco Pasquinucci. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi dell'attenzione e grazie di cuore. Con Renata Ferri, curatrice della mostra Una diversa bellezza, Italia 2003-2018 di Emiliano Mancuso, con inaugurazione giovedì 13 giugno 2019 presso il Museo di Roma in Trastevere, mostra che andrà avanti fino al 6 ottobre 2019. Renata, ben trovata. Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Ce la presenti? Una diversa bellezza è un titolo meraviglioso che ho estrapolato da un testo bellissimo che ha scritto Domenico Starnone per il primo lavoro di Emiliano Mancuso, Terre di Sud, un viaggio nel sud d'Italia che Emiliano aveva intrapreso nel 2003 e che è durato quasi 5 anni con puntate, momenti, weekend. Emiliano, faccio una premessa, è stato il mio primo studente nel 2000, io ho iniziato a insegnare alla Scuola Romana di Fotografia e lì è nato il nostro rapporto, e Terre di Sud è stato il suo primo progetto fotografico on the road, un reportage che è un reportage, diciamo, in cui la traccia giornalistica emerge fondamentalmente da una fotografia spontanea, una fotografia immediata, molto sincera, molto onesta, molto dettata dalla relazione e dalla capacità di Emiliano di stabilire delle relazioni con gli altri. Quindi sono incontri fugaci, incontri di persone che lui trova lungo la strada, nei paesini, nelle città, in un sud che è appunto, come poi diciamo nel testo, che è lo specchio della famosa questione meridionale mai risolta. C'è sempre una scelta di Emiliano di relazionarsi alle fasce sociali più deboli, emarginate, comunque vari tipi di marginalità, sicuramente interessato alle classi sociali più sofferenti. E quindi c'è questo ritratto di un'umanità straordinaria perché è la fotografia di Emiliano Mancuso in questo primo lavoro, Terre di Sud, è una fotografia gioiosa, allegra, paradossalmente molto molto piena di vita, ecco, di una grande vitalità. E questo è il primo capitolo di una mostra che è composta da 4 capitoli. Il secondo grande corpo di lavoro invece l'abbiamo fatto insieme, l'abbiamo progettato dopo Terre di Sud nel 2008 in un'Italia in piena decadenza, dal governo Berlusconi, la riforma Gelmini, la crisi del lavoro, la crisi dell'occupazione, la crisi della casa, e abbiamo, diciamo, tessuto una trama che andava dal nord Italia al sud, comprese le isole, e Emiliano e altri 4 giornalisti hanno deciso di intraprendere un viaggio in camper. Poi il camper non è stata una scelta felice, quindi hanno fatto un viaggio con un'automobile che è durata quasi tutto il tempo dei 3 anni di questa lunga inchiesta. E una lunga inchiesta che ha toccato molti capitoli, dagli sbarchi dei migranti, quindi tutta Lampedusa del 2011, e il problema della casa, le occupazioni, le abitazioni temporanee, il Casilino Novecento a Roma, quindi la tragedia dei Rom, lo sgombero, e poi le manifestazioni di piazza. In tutto questo anche tutta una grande inchiesta sul dissesto idrogeologico, sulle frane, sui paesi abbandonati, e questo è stato fatto da lui insieme a Andrea Micuzzi, a Davide Mari, Angela Mauro, e Laura Eduati, esatto. E insieme a loro hanno fatto con ognuno di loro un capitolo, in un confronto continuo, mentre io ricevevo i loro materiali, li analizzavo, li editavo, e abbiamo dato vita a Stato d'Italia, che è un libro di cui Lucia Annunziata ha scritto una bella prefazione sull'indipendenza di essere giornalisti e di fare informazione, e dice appunto nel testo che per farlo bisogna davvero essere indipendenti e non avere padroni. Le uniche regole a cui rispondere sono quelle della propria etica, cioè il desiderio di portare alla luce e di informare. Questi sono i due grandi corpi di lavoro, e il terzo è un estratto fotografico del documentario. Emiliano poi nel 2012 inizia a fare un lavoro da regista e realizza il suo primo documentario, che si chiama Il Diario di Felix, ed è un documentario all'interno di una casa famiglia, dove lui segue per quasi 2 anni un gruppo di 8 ragazzi che cambiano, perché finiscono il loro periodo lì, poi escono e entrano altri, ed è un ritratto, un documentario vero e proprio, toccante, molto emozionante. Il Museo di Roma in Trastevere poi darà una programmazione per la proiezione, e che lui, mentre gira questo film, realizza anche delle fotografie sia lui che i ragazzi, quindi è infatti un allestimento molto spontaneo. Le foto le hanno fatte tutte insieme, sono delle foto molto ordinarie, ma in cui poi emerge. Lui in questi 2 anni tiene un blog, e da questo blog quindi ci sono delle sue riflessioni che accompagnano appunto la natura dell'adolescenza, della difficoltà, eccetera. Il quarto capitolo è sempre un estratto dal secondo film di Emiliano Mancuso, che si intitola Le Cicale, che è un nuovo docufilm che lui realizza nel 2016, inizia a lavorarci, e che vede la luce. La prima proiezione è stata fatta in settembre a Milano, a Visioni dal Mondo, 2 settimane prima che lui venisse a mancare improvvisamente. E Le Cicale è un film sulla povertà di persone che arrivano all'età della pensione con pensioni risibili, in una precarietà, diciamo, abitativa, e quindi che vivono in grande povertà, con grande disagio, questa fase della vita che dovrebbe essere la fase più serena. E quindi tutta la metafora della cicala e della formica, di chi ha speso, di chi ha trattenuto, eccetera, e questo è un po' il titolo che avevo scelto. Questi sono i 4 capitoli di questa mostra piuttosto grande, che occupa tutto il piano terra del Museo in Trastevere, e spero di essere stata abbastanza chiara ed esaustiva, e soprattutto di aver fatto venire voglia agli ascoltatori di venirla a vedere. Quanti sono gli scatti nel complesso? Allora, sono 68 immagini di terre di sud e circa 40 di grande formato di Stato d'Italia, e 40 foto piccoline delle cicale, e come dicevo il Diario di Felix sono fotine, sono tantissime, sono un centinaio di fotine. Poi il Diario di Felix e Le Cicale va guardato come degli appunti, perché in realtà quello che poi sarà in mostra saranno le proiezioni dei film. Quindi diciamo in totale c'è un corpo di 300 immagini, se vogliamo considerare quelle che possiamo chiamare più opere, sono 130 circa. In parte già lo hai detto, però volevo chiederti quali sono a tuo avviso gli elementi qualificanti dell'opera di Emiliano Mancuso. Sicuramente l'elemento più importante è questo sguardo di grande compassione, nel senso proprio etimologico, cioè di vedere con passione gli altri, con grande empatia, con una grande umanità, e di privilegiare delle situazioni apparentemente difficili in cui lui come autore riusciva ad avvicinarsi. Non è così semplice arrivare in un luogo e fotografare dentro le case o le persone a una distanza ravvicinata. Ci vuole appunto o conoscenza o un approccio estremamente empatico e molto sincero per essere accolti. Questa è la grande forza, insomma, un ritratto dell'umanità che normalmente viene raffigurata con grandi stereotipi. E invece c'è, nel lavoro di Emiliano Mancuso c'è molta, molta partecipazione, molta umanità e quasi tra Terre di Sud e Stato d'Italia c'è un tempo, un passaggio temporale molto grande, parliamo quasi di un lavoro che ci ha. Il primo nasce nel 2003, l'ultimo inizia nel 2008 e finisce nel 2012 ed è un, c'è una grande differenza, anche lui come autore evidentemente sia molto, quando abbiamo affrontato Stato d'Italia eravamo molto incupiti, molto, molto tristi, c'è un'analisi anche proprio politica differente, insomma eravamo in grande sofferenza e c'era un grande desiderio di essere più duri, più spietati. Infatti i due lavori hanno una cifra diversa. Se Terre di Sud ha una, questa grande compassione, ma anche una sorta di gioiosità, e sono delle cartoline di un'Italia marginale ma viva, viva, pulsante. Invece Stato d'Italia è un lavoro in bianco e nero e c'è un'Italia ferita, indurita. Allora ricordiamo l'appuntamento con la mostra fotografica Emiliano Mancuso, Una diversa bellezza, Italia 2003-2018, al Museo di Roma in Trastevere, inaugurazione 13 giugno, mostra che proseguirà fino al 6 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Renata Ferri. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, grazie a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.